La ilaha illallah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Non c'è divinità tranne Allah, e non c'è potere né forza se non grazie ad Allah.